idea, penso che avete già capito che significa hater proof. E questa qui è con un altro grande diluvio da Roma, yeah. Sputate odio se ci riuscite, vai. Oh, yeah, sempre qua, hater proof, a prova d'odio, già ve l'ho detto. Significa che dovete averci una licenza per odiare sta roba. Yeah, e non basta la licenza media vostra. Cambio piastrine ed adesivi ai vari condomini, cartine d'antidepressivi dentro i comodini. Tu non so in che mondo vivi, scrivo versi corrosivi, forse non molto fini, ma molto sottili. La tua musica è fredda come l'Antartide, un'amante sadica decapita come una mantide. Io in astinenza vivo il mondo di Carpenter, teste di morto senza volto né palpebre. Terrone stanco bianco non sferato, sto in una stanza sempre sfatta, sempre un po' sedato. Inverto notte e giorno, dormo, corro, forse è nato. In tutti i casi a te ti occorrono le forze nato. Non ci vuole la bacchetta per le mie magie, non mi occorre andare in vetta nelle gerarchie, né un dottore che mi legga con le terapie. Resto un fiore nella steppa come Sheva Krie. Che ne sai fra te di cosa provo dentro? Tu che ne sai fra te, mi tengo tutto dentro. Che ne sai fra te, cammino avanti, faccio tutto solo, non mi serve una traia per essere un uomo. Ciao zio, questa è la storia di chi? Di un ragazzo che si è fatto il culo tutto solo. Attente va a sentire di chi? Solo quando è necessario va a dormire. Di chi? Se non fuma erba inizia a impazzire. Di chi? Non si ferma mai e crede ancora nei sogni. Fratello, continua, ce la farai. Non sto né su Mediaset né sulla Rai, ma rappo insieme a Sick Madman e Jamie Tights. Io tu che fai? Ormai si sono sprecate tante di quelle parole che indietro non le riapre mai. E c'è talmente tanta tensione nell'aria che la taglio coi coltelli. Questo è rap samurai, capirai. Se non mi conosci tu non lo sai, che non è con i commenti negativi che mi fermerai. No, ci vuole ben altro. Pensavo fossi un tipo scaltro, ma che ne sai fra te di cosa provo dentro? Tu che ne sai fra te, mi tengo tutto dentro. Che ne sai fra te, cammino avanti, faccio tutto solo, non mi serve una traia per essere un uomo. Sto fuori rotta come una nave senza capitano, navighiamo e non sappiamo neanche dove capitiamo. Col sole o sotto la grandine riempiamo le pagine di esperienze sempre più al margine. E fumo tutto quello che posso per non pensare che merda la vita, per sorriderle e farle credere di averla capita. È una perla spiadita, fidati, è una bella fatica, una sperla per ogni volta che mi rifaccia di averla tradita. Bruciato dentro come se ingerissi il muriatico, guardo l'eclissi ad occhio nudo perché è più pratico. Aspiro nuvole fino a vedere il cielo blu statico e poi mi incazzo perché sono un pazzo lunatico. Quindi non provarci con la psicologia inversa, perché sto come dopo un'emorragia intensa. Mi sento come una spia che ci ripensa, rimango in balia, perso in questa via immensa. Che ne sai fra te di cosa provo dentro? Tu che ne sai fra te, mi tengo tutto dentro. Che ne sai fra te, cammino avanti, faccio tutto solo, non mi serve una traia per essere un uomo.